in primo piano. La politica con la vicenda del sì alla legge sul legittimo impedimento è anche un fatto curioso. Se oggi prenderete il Corriere della Sera, se prenderete Repubblica, se prenderete il Messaggero, leggerete lo stesso identico titolo di apertura: sì al legittimo impedimento. La stampa si discosta di poco, sì allo scudo per il governo. Di Pietro e il giornale insistono su Libero e il giornale insistono su Di Pietro, ecco perché lapsus. Di Pietro perde la testa ai voti per Libero, a Di Pietro saltano i nervi. Questo il giornale. L'Unità invece continua campagna per la difesa dei posti di lavoro, lo schiaffo, ed è dedicato all'Alcoa, agli operai dell'Alcoa. Cronaca della resa: i manager americani sbeffeggiano non solo gli operai ma il governo, i sindacati, l'Unione Europea. Per quel che riguarda il Sole 24 Ore, tengono le entrate 2009, su conti e sviluppo l'apertura, e poi anche altre notizie interessanti, per esempio sulla scuola, anticipate oggi dal Sole 24 Ore, che poi vedremo. Ma come detto, il legittimo impedimento è passato alla Camera, è la legge che offre uno scudo processuale per Presidente del Consiglio e Ministri. Cito solo il Corriere della Sera, che intervista Casini. Perché? Perché Casini, l'UDC, è la forza politica di opposizione che in qualche modo ha votato questo provvedimento, meglio, si è astenuta, dicendo è il male minore, e da qui le accuse da parte del PD e l'Italia dei Valori. Ebbene, Casini si difende al Corriere della Sera in un'intervista: abbiamo scelto di sporcarci le mani, ma Berlusconi è senza alibi. In politica bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, anche scegliendo il male minore. Così continua e torna a definire questa legge sul legittimo impedimento Casini. È stato sconfortante il dibattito su questa legge. Sembrava il tempo si fosse fermato a 15 anni fa, una sinistra inevitabilmente sospinta nel giustizialismo, che fa finta di non capire che Berlusconi è un problema oggettivo, e un centrodestra che rispolvera i toni di rivalsa dei momenti più duri. Perché non avete votato sì, allora, l'astensione? Perché è vero che la legge è un ponte tibetano sul quale hanno tentato di salire in troppi. La volevano per i sottosegretari, alla fine ci hanno messo i ministri, ma più si estende un provvedimento così, più lo si indebolisce. Il vero problema irrisolto è quello di Berlusconi, di non averlo affrontato alla radice finora. Ha portato ad avere una seria riforma della giustizia, ma una sfilza di leggine inutili e dannose. Insomma, Casini si difende così dalle accuse di avere in qualche modo salvato da parte dell'UDC Berlusconi. Come detto, invece, per quel che riguarda il fronte politico, continua l'attacco a Di Pietro, che è partito un paio di giorni fa dal Corriere della Sera con la pubblicazione di questa foto del 92 in cui Di Pietro è a cena con Bruno Contrada, che allora era il numero 3 del SISDE, ma una settimana dopo sarebbe stato arrestato con l'accusa e poi condannato per favoreggiamento alla mafia, sostanzialmente. E poi in questa foto c'erano anche degli agenti segreti, qualcuno dice anche agenti segreti americani. Insomma, quell'amicizia con quelle persone, o meglio, quella cena conviviale, da lì sono partite una serie di attacchi. Ripeto, il giornale Libero oggi ci ritornano in maniera molto dura, ripubblicando le foto. Quell'amicizia scomoda con il boss bulgaro è un'altra amicizia scomoda che Gianmarco Chiocci sul giornale a pagina 5 tira fuori, con il racconto di senatore De Gregorio. Di Pietro era amico di tale Ilya Pavlov, discusso imprenditore bulgaro, in odore di mafia, ucciso da un killer. E insomma, diciamo che stanno venendo fuori delle accuse. Il Fatto difende Di Pietro dicendo: il vero problema è, scrive Peter Gomez, perché il Corriere della Sera, giornale molto prudente in genere, ha deciso di pubblicare quella foto come se fosse una prova di chissà cosa. C'è anche Marco Travaglio, che in prima pagina del Fatto è molto incisivo, come al solito, e scrive in questo articolo: incastrato Di Pietro frequentava Incensurati. Dopo 18 anni di indagini, finalmente l'hanno beccato. Di Pietro frequentava poliziotti, carabinieri, detective americani, perfino un questore, Bruno Contrada, prima del suo arresto, si badi bene, prima, non dopo. Le prove, ovviamente sul filo dell'ironia, le prove che lo incastrano, le foto di una cena con questa marmaglia il 15 dicembre 1992. Frequentava incensurati, addirittura investigatori. Uno scandalo. Questa difesa di Di Pietro che ieri ha perso la pazienza, letteralmente, con l'inviata del TG1 che gli ha posto una domanda su questa vicenda, e Di Pietro ha reagito sostanzialmente così. Fuori onda, ma poi mandato in onda da Augusto Minzolini, il direttore del TG1. Il TG1 fa domande del cazzo. Non ce l'ho con lei, ma col suo amico Minzolini. Fuori ci sono i lavoratori dell'Alcoa che rischiano di perdere il posto e mi fate queste domande. Tutto ovviamente, credo, mandato in onda. E vabbè, questa è il momento, insomma, di attacco a Di Pietro, uno dei momenti più duri di attacco al leader dell'Italia dei Valori, che si difende così. C'è tanto sui giornali della visita del premier Berlusconi, che è andato 3 giorni in Medio Oriente. Ci sono molte analisi, molti elogi, molte critiche anche per alcune posizioni del Presidente del Consiglio. Leggo dal Sole 24 Ore: giusta la reazione di Israele a Gaza. Cosa ha detto Berlusconi parlando tra l'altro al Parlamento israeliano, uno dei privilegi concessi a pochissimi esponenti e capi di Stato esteri, rappresentanti di Stato, rappresentanti dei governi esteri. Giusta la reazione di Israele a Gaza, si riferisce all'operazione Piombo Fuso, quella che ricordate, insomma, dal 2008 al 2009, che portò anche a 1.400 vittime tra i palestinesi, 13 vittime invece tra gli israeliani. In questa operazione, dice Berlusconi, sostanzialmente fu una guerra giusta. Poi però che cosa ha fatto? È andato a incontrare Abu Mazen e a una domanda di una giornalista palestinese a dire: beh, ma lei giustamente ha condannato la Shoah, che dire allora delle vittime, 1.400 palestinesi appunto? E ha detto Berlusconi sostanzialmente: da una parte sì, è giusto, è stato giusto bombardare Gaza, ma poi ha paragonato, una sorta di paragone, scrive Francesco Battistini sul Corriere della Sera, a Betlemme tra le vittime della striscia e i 6 milioni di ebrei uccisi nella Shoah. Questo paragone è stato ha dato la stura, insomma, a molti israeliani a dire: ma come, davvero ha detto così? Il paragone sulla Shoah non macchia l'amicizia, scrive il Corriere a pagina 9. Sostanzialmente questa è la critica a Berlusconi. Da una parte ha detto guerra giusta, dall'altra parte però ha fatto questo paragone: le 1.400 vittime della striscia di Gaza palestinesi, insomma, come si piangono le vittime della Shoah, bisogna piangere anche queste vittime. Una sorta di paragone che dal fronte israeliano davvero da qualcuno non è stato gradito, tanto che Massimo Gramellini, nel suo tradizionale buongiorno sulla stampa, lo dedica proprio alla visita del premier, a questi, diciamo, a queste dichiarazioni un po' bifronte, diciamo così. Se questo è un uomo, è il titolo del pezzo di Gramellini. Ma come farà a essere israeliano con gli israeliani e palestinese con i palestinesi? Ad affermare davanti a Netanyahu che bombardare Gaza fu una reazione giusta e 2 ore dopo, davanti ad Abu Mazen, che le vittime di Gaza sono paragonabili a quelle della Shoah, Zelig si limitava a cambiare faccia a seconda dell'interlocutore. Ma questo è un uomo in grado di cancellare il tempo e lo spazio. Riesce a stare con il pilota dell'aereo che sgancia le bombe e nel rifugio sotterraneo coi bombardati, in contemporanea e dispensando a entrambi parole di comprensione. E poi più avanti scrive Gramellini: solo lui ha il fegato di applicare il precetto fondamentale, credere sempre a quel che dice, anche quando è il contrario di quello che appena è detto. Ma come farà? Vorrei tanto chiederlo, se non fosse che lui nel frattempo si è già spostato nella Basilica della Natività a Betlemme, dove sta raccontando ai frati una barzelletta sulla Madonna che avrebbe preferito una femminuccia. A quel punto mi arrendo. Effettivamente questa barzelletta Berlusconi l'ha detta, su Repubblica viene raccontata, insomma, questa barzelletta raccontata ai frati della Basilica della Natività a Betlemme. La critica è anche da parte di Repubblica, per esempio, a un'altra domanda, insomma siamo un po' alle critiche, alle esegesi del discorso, delle parole di Berlusconi a Betlemme, in Medio Oriente e a Betlemme, nell'incontro con Abu Mazen, per esempio il manifesto punta molto su questo. Il muro, cioè quella barriera che gli israeliani hanno messo per anche e soprattutto limitare l'ingresso di eventuali attentatori kamikaze dai territori palestinesi. Il muro non l'ho visto. Questo ha risposto Berlusconi a un giornalista che gli ha chiesto che ne pensasse. Ha detto: non mi sono accorto, stavo rimettendo a posto le mie idee, prendevo appunti. E dice: mi spiace deluderla il giornalista, ma non me ne sono accorto, chiedo scusa di questo. E anche su Repubblica: il muro non me ne sono accorto. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 7. Insomma, trovate analisi, elogi e critiche della visita al Presidente del Consiglio in Medio Oriente. Così come vorrei aprire il fronte economico, voglio sottolineare un'intervista che ha in esclusiva La Stampa, lo fa questa intervista il direttore Mario Calabresi, all'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. Gli incentivi prima o poi vanno eliminati. Vogliamo così introdurre la questione economica sui giornali. Marchionne, non faremo drammi. È un'intervista che si trova a pagina 2 e 3. Nessun ricatto, io cerco il dialogo. Sono agnostico sugli incentivi, dice Marchionne. Il governo faccia la sua scelta, noi l'accetteremo senza drammi. Ma abbiamo bisogno di decisioni in tempi brevi e uscire dall'incertezza. Poi saremo in grado di gestire il mercato e la situazione, qualunque essa sia. Poi è una lunga intervista, una lunga chiacchierata di 2 pagine, come detto. Parla anche della cassa integrazione annunciata da Fiat. La legge prevede che la cassa integrazione sia comunicata 25 giorni prima. Se avessimo aspettato un mese in più, dice Marchionne, avrebbero detto che volevamo alzare la tensione in prossimità delle elezioni. E il direttore Calabresi chiede: vuol dirci che non ci sono legami tra la cassa integrazione e con gli incentivi? No. Se non che per programmare la produzione c'è bisogno di certezze. Su Termini Imerese, conferma Marchionne, la decisione di non fare più automobili a Termini è stata presa dal 2011. Non ci sono i requisiti perché possa continuare a produrre vetture. Insomma, conferma le cose più importanti che stanno creando anche sicuramente tensione sociale. Sulla questione degli aiuti pubblici, dice Marchionne, si dice che la nostra azienda è stata tenuta in piedi con le risorse dello Stato. Ma se guardo alla mia gestione, non c'è paragone tra tutto quello che abbiamo messo e perso e quello che abbiamo ricevuto. Ripeto, questa lunga intervista che vi segnalo sulla Stampa, pagina 2 e 3, parla l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne. Voi pensavate che il caso Boffo fosse chiuso? Invece no, ma continua, è incredibile questa vicenda. Le dimissioni dell'allora direttore d'Avvenire. Ora si cerca la manina che avrebbe, tra virgolette, armato Vittorio Feltri in quel suo articolo sul giornale che portò alle dimissioni di Boffo. Anche oggi, io non ci potevo credere, ne è pieno di articoli sui giornali, articoli che vedremo dopo il traffico. In primo piano. Il caso Dino Boffo diventa romanzo. Con questo editoriale Vittorio Feltri, il direttore del giornale, torna a parlare della vicenda Boffo, quello che lo vide protagonista quando nell'agosto dell'anno scorso, lo sapete, scrisse in prima pagina di una condanna che riguardava l'ex direttore d'Avvenire, poi anche di questa presunta omosessualità poi smentita e che portò al putiferio, le polemiche, le dimissioni. Ora, Vittorio Feltri esordisce così: mi scuso coi lettori, ma sono costretto a tornare sul caso Boffo. Addirittura ora si è allargata la vicenda cercando nel Vaticano, coinvolgendo il Vaticano, cardinali, vescovi che non conosco e non frequento perché, grazie a Dio, sono ateo. Feltri riepiloga un po' tutta la vicenda, ribadisce: ho dichiarato che la notizia della condanna di Boffo mi fu fatta pervenire da persona affidabile, istituzionalmente affidabile, non estranea alla Chiesa Cattolica, che non è un club ristretto. Ora si è scatenata la caccia alla personalità che ci regalò la dritta. Vabbè, Feltri dice: a me della caccia sostanzialmente non interessa nulla, ovviamente non dirò mai chi me l'ha data. Quello che conta è che la notizia della condanna di Boffo era per molestie era vera. Però conclude: non conosco né il direttore dell'Osservatore Romano né il cardinale Bertone, mai incontrati, li ho visti in fotografia e in televisione. Amen. Perché cita Vian, il direttore dell'Osservatore Romano, e il cardinale Bertone? Perché da un paio di giorni sono le persone cosiddette nel mirino, cioè coloro che per esempio per il Foglio sono loro che in qualche modo hanno passato la velina, addirittura per ieri per Repubblica la ricostruzione era questa: il direttore dell'Osservatore Romano fa avere la velina, questa notizia a Feltri, che la pubblica dicendo questa notizia la deve pubblicare e il cardinale Bertone le sarà grato. E poi addirittura il cardinale Bertone avrebbe chiamato Feltri ringraziandolo a nome della Chiesa per il suo intervento. Insomma, ricostruzioni davvero che oggi sulle quali oggi Repubblica torna con un editoriale e tre pagine centrali di firmate tra l'altro da Vito Mancuso, che è un teologo, che si chiede: sarà vero che il documento calunnioso sul direttore d'Avvenire è stato consegnato al direttore del giornale niente meno che da Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano, dietro esplicito mandato del segretario di Stato Vaticano Bertone, numero 2 della gerarchia cattolica a livello mondiale, e che l'insigne porporato si è servito di Vian e Feltri per colpire il direttore d'Avvenire in quanto espressione di una conferenza episcopale italiana a suo avviso troppo indipendente e troppo politicamente equidistante? Sarà vera la notizia di questo complotto intraecclesiale degno di Papa Borgia e di sua figlia Lucrezia? Come cattolico spero di no, scrive Mancuso, ma come conoscitore di un po' di storia e di cronaca della Chiesa temo di sì. E poi all'interno c'è tutta, insomma, l'articolo, ma davvero trovate un po' ovunque, anche per Libero addirittura, chi c'è dietro tutto questo, in un articolo di Fausto Cariotti che è un intreccio di personalità che si conoscono. Non solo c'è la vicenda Vaticano Giornale, ma i veri mandanti di tutto sono al Corriere della Sera. Oh, ve la lascio così perché è degna di un vero complotto, ve la dovete leggere del perché ci sarebbe dietro il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che vorrebbe laicizzare come missione, laicizzare prima con la direzione Mieli, ora con De Bortoli, laicizzare il paese, deruinizzarlo dal cardinal Ruini, evidentemente, insomma, complotti orditi, chissà, oggi proprio il Corriere della Sera, ma questo lo segnalo per dovere di cronaca, in prima pagina ospita un articolo, l'editoriale di Sergio Romano, l'ossessione del complotto è una costante del costume nazionale, contro proprio il costume nazionale di vedere complotti ovunque, sarà un complotto anche questa coincidenza. Oh, torniamo sul Sole 24 Ore, dove come detto troverete molto di anticipazioni sulla scuola, perché oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare un riordino soprattutto dei licei, che passeranno da 396 indirizzi attuali a 6 tipologie di base: classico, scientifico, artistico, linguistico, musicale, coreutico e delle scienze umane. Oggi in Consiglio dei Ministri i 3 regolamenti sulle nuove scuole superiori, scoprirete già tutto in anticipazione leggendo a pagina 4 il Sole 24 Ore, riforma limitata alle prime classi. Devo andare al caso Morgan, perché con quello voglio concludere, perché ne sono pieni i giornali di commenti. Han fatto bene a buttarlo fuori da Sanremo dopo che lui ha dichiarato al giornale, al mensile Max, di fare uso di droga. Han fatto male, perché non bisogna essere ipocriti tutti, o molti, tutti per carità, qualcuno dice molti a Sanremo si drogano, e poi droga e cantanti, insomma, sappiamo che è un binomio storicamente un po' consolidato. Intanto Morgan, che ripeto ha detto, io ce l'ho al mensile Max in questo servizio, la droga apre i sensi a chi li ha già sviluppati, li chiude agli altri. Io uso la droga, la cocaina come antidepressivo, avercene di antidepressivi come la cocaina, fa bene, Freud la prescriveva, insomma. Oggi il quotidiano nazionale, Il Giorno, intervista Morgan, cronaca di un'intervista lunga un giorno, un Morgan totalmente diverso. Ho sbagliato, ora ho paura, non voglio perdere mia figlia, ho iniziato a disintossicarmi. Quando ho visto quelle parole, non dico di non averle dette, quelle cose, ma sono state strumentalizzate, mi sono state storte. Ho pensato, adesso mi tolgono la figlia, una figlia di 9 anni, insomma un Morgan disperato. E ci sono, ripeto, molti commenti, ne cito solo uno. Michele Brambilla, in prima pagina sulla Stampa, Morgan e l'elogio dell'ipocrisia. Questo è il titolo del commento. Ipocrisia. Tutti coloro che hanno contestato l'esclusione di Morgan da Sanremo hanno fatto ricorso a questo vocabolario, dice Michele Brambilla, che poi va avanti e dice: il problema è, non è che Morgan ha detto solo che si droga, ha detto che la droga fa bene. E poi cita le testuali parole: dunque, se escludere da Sanremo uno che lancia al pubblico messaggi del genere è ipocrisia, viva l'ipocrisia, dice Michele Brambilla. Per questo facciamo un elogio dell'ipocrisia, ben sapendo che ci prenderemo dei moralisti e ovviamente anche degli ipocriti, da coloro che parlano pure per difendere stili di vita personali e che però, naturalmente, si guarderebbero bene dal mandare i loro bambini su uno scuolabus guidato da un cocainomane. Ipocriti un po' anche loro, no? Che ne pensate? Morgan, escluso da Sanremo, ne parliamo alle 8.30, è il nostro sondaggio che dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. È il momento di dare la linea a GR24, a dopo.